Ciao, io sono Laura Boltolina e questa Podletter è Il Pulcino e il Coro. Canto in un coro pop. La scelta di cantare è stata un atto terapeutico, volevo dialogare con un trauma antico, ma questa è un'altra storia. E ho trovato il coro per me grazie a una serie di sincronicità decisamente magiche, ma anche questa è un'altra storia. Quello che conta è che canto nel coro più pop e inclusivo delle Marche, perlomeno. C'è chi canta da tutta la vita professionalmente e non, a fianco di chi lo ha fatto solo sotto la doccia o da sola o da solo, in auto e con i finestrini rigorosamente chiusi. Mi ci sono rivista subito, è come ai miei retreat. Ci trovi insegnanti di yoga accanto a debuttanti assoluti. Perché in fondo l'armonia non dipende dal saper fare, ma dalla disponibilità a mettersi in gioco. Nessuno è fuori posto. Siamo al primo concerto della stagione, nella pausa fra soundcheck ed esibizione, nell'attesa elettrica e nervosa dei ripassi di Rossetto e delle parti. E lì, sul cemento davanti all'edificio all'interno del quale stiamo per esibirci, c'è un pulcino. Piccolissimo. Spiumato, ipotermico, e non c'è nessun nido in vista. Due delle coriste, una veterinaria e un'esperta che a casa ha l'incubatrice per uccellini, lo esaminano e sono sconsolate. Non ce la fa, è troppo piccolo e non abbiamo nulla qui ora per salvarlo. Non volevo iniziare il concerto col cuore spaccato, non volevo partire con una nota stonata. In fondo quel pulcino non poteva essersi materializzato dal nulla. Abbiamo cercato il nido, abbiamo cercato meglio e finalmente lo abbiamo trovato in un angolo invisibile, protetto, geniale. Il pulcino è stato rimesso nel suo nido grazie a un acrobatico lavoro in team e siamo saliti sul palco aprendo il concerto, gasati e col cuore leggero, con la sensazione di aver già concluso un'avventura. Di aver già centrato un obiettivo. Se ti senti fuori posto, come quel pulcino sul cemento, senza saper dove andare, esiste il retreat giusto per te dal 4 al 6 luglio, un percorso per centrare gli obiettivi, allineando intuizione, emozioni e consapevolezza. 3 giorni di yoga retreat in Toscana sulle Creti Senesi per smettere di girare in tondo inseguendo i tuoi obiettivi senza raggiungerli mai davvero, e smettere di sentirti fuori sincrono. Ogni attività è pensata e costruita per aiutarti a riconoscere con precisione ciò che ti guida e ciò che desideri davvero, portarlo nella tua vita senza frammentarti e trovare la tua coerenza energetica senza irrigidirti. Come? Allineando questi 3 centri vitali. Intuizione, che sa orientarsi senza prove. Emozioni, che forniscono energia e direzione. Consapevolezza, che permette di vedere se stessi e se stesse in modo autentico. C'è uno sconto solo per chi riceve questa newsletter e solo fino al 10 giugno o a esaurimento posti. Il retreat, tutto compreso, è a 320 euro anziché 360. Non sei nata, non sei nato per funzionare a pezzi. Prenota il tuo posto. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Mary Oliver, dalla sua poesia Misteri, sì. Fammi stare alla larga, sempre, da chi crede di avere tutte le risposte. Fammi stare in compagnia, sempre, di chi dice guarda e ride sorpresa e chi nel capo. Un abbraccio grande, Laura.